L'alba si incendiò sui binari del tram, una gazza mi rubò la mia croce da progetti punk. Guardo lassù, ma il cielo è una fotografia, vedo nei tuoi stracci, cioè cancelli della follia, yeah, questi siamo noi. Con il freddo che fa fra l'incudine di Dio e il martello dell'umanità, eccoci qui ripresi dalla TV, yeah, scordiamo il show passato, che al futuro ci hai pensato tu, ci hai pensato tu. Ma che amico sei, ma che amico sei, Jesus was a good man. Ma che scherzi fai, ma che scherzi fai, Jesus was a good man. Io non ero lì, sono stato via, non so più dov'è, neanche casa mia, yeah. And Jesus was a good man. Scesero dal jet come autentiche star, sotto raffiche di flash, benedissero la città. C'eri anche tu, fuga dal pianeta rock. C'erano i tuoi figli con i segni dell'elettroshock, dell'elettroshock. Ma che amico sei, ma che amico sei, Jesus was a good man. Ma che faccia hai, ma che faccia hai, Jesus was a good man. Cosa c'è lassù, cosa c'è lassù, siamo soli o no, ce lo dici tu, yeah. Jesus was a good man. Was a good man. L'alba si incendiò sui binari del tram, una gazza mi rubò la mia croce dal progetto di punk. Guardo lassù, ma il cielo è una fotografia, vendo nei tuoi stracci, cioè i cancelli della follia. Ma che amico sei, che amico sei, che amico sei, Jesus was a good man. Ma che scherzi fai, ma che scherzi fai, Jesus was a good man.